La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci insieme, Franco D'Assisti in studio, il nostro mitico Peter Bescapè qui in regia per la nostra puntata della Rosa Purpurea, l'ora di cinema di Radio 24, anche in questo fine settimana finale di, e anche festivo, diciamo così, in un certo senso, di aprile. Siamo proprio nel bel mezzo dei due ponti di primavera, primavera che con qualche difficoltà è finalmente arrivata. Il cinema c'è sempre, ci sarà, e quindi noi vi raccontiamo tutto quello che c'è da vedere in questo weekend, a partire ovviamente fra poco dall'approfondita recensione di Iron Man 3, che è il film della settimana in termini di incasso, senza dubbio. Magari non è epocale, anticipo un po' un giudizio in termini di film in se stesso rispetto ai primi due, ma insomma ne parleremo fra poco. Non è ovviamente l'unica proposta, ce ne sono tante e anche molto interessanti. Avremo ospiti importanti, due attori molto molto popolari del cinema italiano come Margherita Bui e Stefano Accorsi, ma non anticipiamo troppo i temi, anzi ascoltiamoli nei nostri titoli di testa. Arriva nelle sale Iron Man 3, l'ultimo capitolo della saga dell'Uomo di Ferro con Robert Downey Jr. Questa volta il cattivo è il Mandarino, uno straordinario Ben Kingsley, anche se il supereroe metallico sembra aver dato ormai il meglio di sé. Sempre più produttiva la fabbrica Miyazaki, arriva nelle sale un film del 1989, targato Studio Ghibli. È Kiki consegne a domicilio, la storia di una streghetta tredicenne. Il tratto, come sempre, non delude. Un'ispettrice di alberghi di lusso, il ritorno di Fiamma con un ex amore improbabile, una libertà che non basta. Sono gli ingredienti di Viaggio sola, il nuovo film di Maria Sole Tognazzi, con Margherita Bui e Stefano Accorsi. Ascoltiamo i due attori nell'intervista alla Rosa Purpurea. Il regista di culto Rob Zombie torna con Le streghe di Salem. Una giovane DJ rockettara riceve un disco in vinile. Ascoltandolo, precipiterà nel vortice dei ricordi e non sarà piacevole. Dissacrante horror d'autore per uno dei registi che hanno saputo rinnovare il genere. E allora, questo è il menù di questa settimana. Noi cominciamo con un film che, diciamo così, ha un nutrito numero di estimatori, il cosiddetto zoccolo duro, come viene chiamato, ovvero il film di Rob Zombie, Le streghe di Salem. Siamo in atmosfera, potremmo chiamarla, di horror d'autore. Ce ne parla Chiara Pizzimenti. Salve, lei è il nuovo vicino? Ho visto che alla fine hai affittato il famigerato numero 5. Quell'appartamento è un disastro. Non lo vuole nessuno. Ma ho visto qualcuno sbattere la porta 10 minuti fa. Ti sarai confusa, mia cara. Non ci vive nessuno al numero 5. È chiaro a tutti che in quell'appartamento qualcosa di strano c'è. Come la protagonista, Heidi, DJ in una radio di Salem, anche lo spettatore vede una figura sinistra e più di lei ha già visto la somiglianza con una delle streghe mandate al rogo nella cittadina del Massachusetts nel 1692. Ancor più strano e sinistro è il disco che Heidi riceve alla radio. Una musica disturbante, opera di un gruppo, Lords of Salem, il titolo originale del film, che manda quasi in trance la DJ e le altre donne all'ascolto. La maledizione dice che le streghe torneranno per possedere l'anima delle donne di Salem e l'eletta partorirà colui che erediterà la terra, il figlio di Satana. Benvenuta. La leggenda si compie. Streghe tornate per la grande rinascita, sogni e visioni di corpi deformati e mostruosi a partire da quello di Satana, masturbazioni e sesso orale ottenuto anche da un monsignore con la forza, un monsignore che poi si trasforma in demonio. Rob Zombie, quello della Casa dei Mille Corpi, porta con sé alcune certezze. Musica, fotografia, la moglie Sherry Moon come protagonista, che sono la parte vincente del film. Dall'altra parte però resta il dubbio su cosa veramente abbia voluto fare. Non un horror da terrore puro, non da disgusto totale, certo fastidioso e inquietante, ma non del tutto convincente, a dirlo per primi sono gli spettatori, soprattutto appassionati del genere e del regista. Aspettavo qualcosa con un po' più di mordente, che coinvolgesse di più lo spettatore. Direi che in questo film di Rob Zombie non mancava nessuna citazione, un bel quiz. Dimmi dove ho preso l'ispirazione, ci sono tutti un po' i suoi feticci cinematografici, quindi è anche divertente. Un po' troppo laccato, io preferivo all'inizio quando non si capiva niente ed era più sgangherato, è troppo elegante per i miei gusti adesso. Pur essendo un grande fan del regista, salverei la prima parte, ma la seconda no. Fra un kitsch, un forzato. Come opera pop ci può anche stare, però è trashissimo, quindi sono molti elementi inguardabili. Non va preso troppo sul serio, ovviamente. Il fatto della musica, associazione musica satana, così, mi sembrava una cosa già vista, sentita. Niente di novità. Splendido. Fotografia, assurdo, mi è piaciuto molto. È nel perfetto stile suo. La rosa purpurea. Sono Tony Stark. Costruisco cose eccezionali. Ho una ragazza meravigliosa. E occasionalmente salvo il mondo. Allora perché non riesco a dormire? Mi avete eletto per il mio unico programma: difendere il nostro paese a tutti i costi. Il mandarino deve essere fermato. Tu non sai chi sono. Non mi vedrai mai arrivare. E allora, questo è un po' il clima, l'incipit del trailer di Iron Man 3, di questo parliamo. Come detto, in questo fine settimana il film acchiappa tutto, non è che ci sia grande difficoltà a fare dei pronostici, insomma, con Iron Man 3, c'è invece da raccontare una storia fino a dove possiamo arrivare e anche da trarre un po' le conclusioni di questo terzo film della trilogia, questa volta in 3D, quindi con occhialini. Tutto comincia in Svizzera, tutto comincia con un flashback, 1999, anzi notte di Capodanno del 2000, Tony Stark che si intrattiene con una bella ragazza e manda sul tetto ad aspettare uno scienziato visionario che aveva fatto di tutto per entrare in contatto con lui e proporgli il suo ritrovato, diciamo così. Ritroviamo tutti 12 anni dopo, li ritroviamo con Tony Stark che è Iron Man, con Tony Stark che è affermato, ma che deve fronteggiare un nuovo pericolo che si chiama il Mandarino, perché fa partire dei messaggi tipo Al-Qaeda che si sovrappongono in onda alle trasmissioni di tutto il mondo e annuncia nuovi attacchi, nuove stragi che puntualmente avvengono, solo che avvengono senza che se ne abbia più alcuna traccia. Esplosioni enormi, veramente enormi, ma senza capire mai, trovare una traccia di polvere da sparo, senza trovare mai traccia di un detonatore. Perché? Perché quello che il mandarino fa esplodere sono uomini che esplodono da dentro, con proprio quel ritrovato che lo scienziato lasciato sul tetto ad aspettare in quella fredda notte di Capodanno a Berna ha messo a punto. E proprio qui chiaramente parte tutto quello che è il plot di questa storia, con Tony Stark che deve, come spesso fa suo malgrado, gigioneggiando un po', rimettere la sua corazza d'acciaio, la sua divisa in seconda pelle e ritrasformarsi in Iron Man per combattere contro questo cattivo di turno, questo mandarino che si rivelerà essere molto molto diverso da quello che si pensa. Ma l'annuncio di guerra, la dichiarazione di guerra che Tony Stark gli fa è invece di quelle serie. Io ho un augurio di buone feste che volevo tanto inviare al mandarino, solo che finora non sapevo formularlo. Mi chiamo Tony Stark e non mi fai paura. So che sei un codardo, perciò ho deciso che da questo momento sei morto. Vengo a prendere il tuo cadavere. Qui la politica non c'entra, è una bella vendetta all'antica. Niente Pentagono, solamente io e te. Nel remoto caso tu fossi un uomo, ecco il mio indirizzo: 10880 Malibu Point 90265. Lascerò la porta aperta. E allora, questo è l'appuntamento che Tony Stark dà al mandarino. Noi salutiamo Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, cerchiamo di trovare un punto dal quale partire con questo Iron Man 3, perché vedendole, riparlandone, non mi viene molto di più dello spettacolone da 2 ore e 10 minuti, impeccabile in termini di produzione, di effettistica, di esplosioni e di ironia, però... C'è un però, mi sembra di poter dire che dopo 2 film la parabola del personaggio Iron Man, non tanto del personaggio narrato, quanto la parabola interiore, quella cosa che ce l'aveva fatto amare e ce l'ha fatto amare come il supereroe più atipico e guascone della recente ondata, mi sembra si vada esaurendo o forse si sia addirittura esaurita. Ma c'è tantissima carne al fuoco e rimane tutta cruda per quanto mi riguarda, nel senso che ci sono anche tante idee interessanti in questo Iron Man 3 che secondo me per esempio nel 2 non c'erano, penso per esempio alla figura di un bambino che solletica la paternità sempre negata da parte di Tony Stark, penso anche a questa, come dire, parabola sul precariato, sulla disoccupazione di questo scienziato che è trattato male da un datore di lavoro arrogante, o da un possibile datore di lavoro arrogante addirittura diventa il nemico numero uno del mondo. Penso alla riflessione su quanto i media sono determinanti nel clima del terrore, questo mandarino che è nient'altro che la caricatura di Bin Laden e l'uso che fa della TV è molto brillante ed è molto interessante. E poi c'è questo Tony Stark che, come sentivamo nel trailer, dice: a volte salvo il mondo, sono miliardario, sono bellissimo, sono straordinario, però non riesco a dormire. Quindi c'è anche l'aspetto, come dire, personale, no? Della fragilità personale. Qui vediamo un Tony Stark molto più presente di Iron Man arriva tra l'altro a pezzi e di rado. Quindi di base, a mio parere, c'era tutto per poter costruire quella parabola che dicevi tu, però come dicevi tu molto probabilmente questa parabola è stanca e discendente. Un Robert Downey Jr. che non ha più molta voglia di fare Iron Man, infatti questa è l'ultima volta che metterà l'armatura, probabilmente ha contribuito, qui è abbastanza sciatto, non ha quel carisma che gli abbiamo visto in altre occasioni, è molto gigione, più di quanto lo sia stato fin dal primo, però non è aiutato neanche da una regia che, insomma, sì, è appunto lo spettacolone fracassone straordinario, ma poco altro, e da una sceneggiatura che spesso gli mette in bocca delle battute, dei dialoghi assolutamente improbabili, di cui si salvano un paio di battute, una delle quali dedicata a Happy Days. E quindi quello che rimane è davvero pochissimo, cioè quello che rimane tra le dita è una storia che va via un po' come la casa di Tony Stark attaccata dal mandarino. Viene giù senza grande, grossa, molto bella, ma che viene giù molto facilmente. E invece forse proprio il mandarino è una delle cose più divertenti del film, cioè questo Ben Kingsley dalle due facce, adesso non svegliamole troppo, ma insomma dalle due facce, con un attacco come dire cattivissimo da Bin Laden, e un lato B da fumatone californiano, è davvero una delle cose secondo me più azzeccate. La sensazione, Boris, mia è stata che Robert Downey Jr., tu dicevi forse anche un po' stanco, e probabilmente quella è la chiave di lettura, si divertisse anche in sceneggiatura a fare troppo l'Iron Man, cioè ho capito che devi strizzare l'occhio perché io so che tu sai e quindi lo spettatore è complice, eccetera, però insomma il continuare a fare battute che mettano in scena Iron Man come personaggio invece che interpretarlo mi è sembrato un po' uno dei punti di debolezza di questo film. Assolutamente d'accordo, infatti secondo me la cosa più riuscita del film, e questo ve lo diciamo, non vi consigliamo forse di andarlo a vedere così tanto, ma se lo andate a vedere, non come si dovrebbe sempre fare, non alzatevi prima della fine dell'ultimo titolo di coda, perché c'è una bonus track, diciamo, una scena ulteriore a cui ormai ci ha abituato la Marvel, e lì c'è forse la scena più bella del film, con un altro supereroe, anch'esso in borghese, e lì forse nel momento in cui entrambi interpretano il loro personaggio e non il loro supereroe fanno la cosa migliore. Il guaio è che il film è già finito. Esatto. Ricordiamo anche Jon Favreau, regista di tanti altri film d'azione nei panni del bodyguard di Robert Downey Jr. Questo è Iron Man 3. Adesso noi cominciamo a giocare insieme perché dobbiamo farvi ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Ho fatto splash, no. Ho fatto splash. Ancora questa pubblicità dello splash. Massimo! Ma te ne è che esiste? Ah, 8 tutti, sì, perché non eravamo ancora sposati, vivevo con l'Angela e la Luisa. E allora l'indirizzo per giocare, la rosa purpurea @radio24.it, dovete dirci di che film si tratta, se lo avete indovinato, il vostro indirizzo, mi raccomando, il vostro indirizzo, e poi più tardi ci saranno due possibilità, in palio un DVD di questo film per il sabato e per la domenica per il primo ascoltatore che indovinerà. Allora, abbiamo ancora il tempo per saltare, come facciamo sempre alla rosa purpurea di Paolo in Frasca, perché così è la distribuzione cinematografica, e passare dal colossalone per famiglie come Iron Man 3 a un film, anche questo sicuramente per famiglie, per tutti, ma sicuramente più piccolo, anche se molto molto aggraziato. Stiamo parlando di Kiki consegne a domicilio, film firmato da Hayao Miyazaki. Ormai la Factory Miyazaki sforna più film di quanti nei dischi sfornasse Frank Zappa, cioè ogni 6 mesi ne arriva uno. Boris, cominciamo da qui nel raccontare questa storia di questa streghetta di 13 anni compie il suo apprendistato insieme al suo gatto parlante. Ecco, grande fantasia, come sempre un tocco magico nel disegno, però davvero Miyazaki, che era stato quasi oggetto misterioso, nel senso che non lo si vedeva mai, non lo si sentiva mai, sapevamo di questo mito di Miyazaki, negli ultimi anni ha sfornato una serie di film clamorosa. Si vede che fa successo e che evidentemente pecunia non olet. Ma saltiamo di palo in frasca, secondo me, fino a un certo punto, perché in fondo la parabola della Marvel che sforna un film di supereroi ogni 7-8 mesi e quella di Miyazaki adesso come adesso non sono molto diverse, vengono tutte e due da diversi tipi di, come dire, immaginario disegnato. Quindi a mio parere, anzi, le due cose si legano molto di più di quello che possiamo immaginare, anche se chiaramente pescano in immagini e in fantasie completamente diverse. Miyazaki, io devo essere sincero, mi verrebbe da dire pecunia non olet, però ogni volta che lo vedo non so se è suggestione o che cosa. Certo, non siamo di fronte ai capolavori di quando forse teneva le redini un po' più strette, però ognuno di questi film che esce, magari è piccolo, magari è una storia anche ingenua, però dopo mezz'ora, 40 minuti sei rapito dai disegni, dall'immaginario, da questi personaggi di una tenerezza infinita che probabilmente a un altro autore non concederesti, che lui però ti sa raccontare con dolcezza. Qui insomma la sospensione della credulità è anche più forte che in altri suoi film. Siamo di fronte a una ragazzina che deve cambiare città per una questione familiare e che, come Harry Potter, entrando nella pubertà, entrando nell'adolescenza, di fatto scopre di avere poteri magici, e lei è proprio una classica strega, cioè una di quelle che prende una scopa e può volare. L'idea geniale di Miyazaki è che tutto può essere lavoro, anche qui come in Iron Man, diciamo, se vogliamo scherzare, c'è un accenno al precariato, addirittura qui al lavoro minorile, perché lei lo usa per la cosa più semplice di tutte, per fare consegne a domicilio, perché ovviamente una bambina con una scopa che può volare può arrivare dove vuole in poco tempo. E attraverso questa piccola semplice idea noi riusciamo a divertirci con una sceneggiatura molto esile, cioè con varie tappe in cui lei incontra varie persone, e vicino a lei c'è questo suo migliore amico con cui si svilupperà un sentimento molto forte, che la segue, che è goffo, che non sembra fatto per lei e che invece chiaramente è fatto per lei. È tutto molto semplice, è tutto forse persino scontato, anche le immagini e i disegni di questa Factory Miyazaki ormai sono riconoscibili fin dalla prima sequenza, e però io me li rivedrei tutti in fila anche in una maratona notturna. Assolutamente, ricordiamo tra l'altro che questo è il terzo film dello studio Ghibli, è stato il primo successo commerciale ed è targato 1989, quindi è proprio un ripescaggio di un film che ha tutto il suo tempo e che appunto viene rimesso in circolazione, anche perché appunto in questa fase, in questi ultimi anni, la Factory Miyazaki ha forse definitivamente conquistato il pubblico popolare anche in Occidente. Questo sicuramente non fa altro che bene. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea, parliamo del ritorno di un grande autore del cinema da festival, diciamo così, del cinema internazionale. Stiamo parlando dell'iraniano Abbas Kiarostami, con un film che si intitola Qualcuno da amare, un uomo anziano, una giovane donna, lo sfondo di Tokyo, il conoscersi o non conoscersi, l'avere la sensazione di essersi conosciuti, un incontro, l'amore, ma in queste 24 ore sembra avvenire tutto un po' per caso. Allora facciamoci un po' la bocca col trailer. Stasera non posso. Questo cliente è un uomo molto potente. Ti stavo aspettando. Ho sentito dire che lei è un uomo famoso. Forza, apri! Cosa sta succedendo? Beh, insomma, musicalmente, diciamo così, il trailer sicuramente è molto molto molto valido, magari evoca poco in termini audio, visivamente un po' di più. Boris, Abbas Kiarostami, il maestro del cinema iraniano degli anni 90 e dell'ultimo decennio del secolo scorso, con una storia che almeno nelle apparenze estetiche sembra una delle più occidentali da lui firmate. Beh, addirittura direi così occidentali da finire nell'estremo oriente, perché appunto c'è questo Giappone così presente, c'è chiaramente Ozu che lui ha amato moltissimo. Tutto il rispetto per Abbas Kiarostami, senza di lui probabilmente non avremmo avuto i Panahi, i Prati, non avremmo conosciuto un certo tipo di cinema iraniano moderno, e ha fatto dei capolavori straordinari. Qui francamente io sono rimasto abbastanza interdetto, perché cercava Ozu e temo che non abbia trovato neanche Sofia Coppola. Il suo è una sorta di Lost in Translation, tutto giapponese, dove quest'uomo anziano entra nella vita di una ragazza che evidentemente fa l'accompagnatrice a una doppia vita, un ragazzo molto geloso e ha un uomo che gli procura appuntamenti. Vero è che noi non vediamo farle nulla di sconveniente, però si intuisce che insomma non tutto va bene, di sicuro lei comunque nasconde tutto a questo ragazzo molto geloso. Queste 24 ore non dipanano, e questa è forse la cosa più interessante del film, il mistero che c'è attorno ai personaggi. Non capiamo chi c'è dietro questo vecchio attore non professionista, tra l'altro straordinario, era uno che ha fatto la comparsa per 50 anni e che Kiarostami ha scelto per fare il protagonista, perché non era soddisfatto di nessuno dei provini, e la scelta forse è la scelta più forte del film, questa sorta di strano vecchio che un po' Gianni Minà, un po' Miyagi di Karate Kid, per far capire la fisionomia. E non si capisce appunto questa ragazza cosa faccia, quale passato abbia, si capisce che non ha un buon rapporto con la famiglia, e insomma i due sono stranamente legati da questo ragazzo che è a metà tra il fidanzato innamoratissimo e lo stalker. Tutto molto bello anche in questo caso, un po' come in Iron Man, tutto molto intelligente. C'è un Kiarostami che comunque chiaramente non ha smesso di sapere come girare, e che lo troviamo per l'ennesima volta in un abitacolo di una macchina, perché quasi tutto accade in un abitacolo di una macchina. Questo può essere anche interessante, però poi la storia non decolla mai, non ti appassiona mai, non ti scalda mai, non ti intimorisce neanche mai, perché chiaramente c'è una sensazione di pericolo che poi si vedrà nel finale, non anticipo nulla, e quindi rimane fredda, come spesso è accaduto secondo me negli ultimi film di Abbas Kiarostami. E allora questo è il giudizio su Qualcuno da mare. Giochiamo ancora insieme, seconda traccia del nostro game. Senta, facciamo prima L'Armée des Ombres di Melville o The Manchurian Candidate di Frankenheimer? Veramente, dottore, adesso c'è Nichetti. Come Nichetti? La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo per provare a ricevere una copia del DVD di questo film più tardi, l'ultima possibilità. Parliamo invece adesso di un altro film, Viaggio Sola, Maria Sole Tognazzi torna alla regia con un cast che mette dentro due degli attori più popolari come Margherita Bui e Stefano Accorsi, con Margherita Bui che veste i panni che furono di William Hart in Turista per caso, andando a recitare il ruolo di una ispettrice di alberghi di lusso, di quelli che vanno a vagliare la qualità del servizio degli alberghi. Un film, Boris, che dalle prime notizie pare che al pubblico stia piacendo abbastanza. Sì, anche un po' George Clooney di Tra le nuvole, soprattutto quando insomma si vanta delle miglia, delle 300.000 miglia che si è messa da parte, con cui può partire dove vuole. Il film di Maria Sole Tognazzi è un film strano, io ne sono abbastanza felice, nel senso che anche se è un film a mio parere non riuscito, è il segno, secondo me, uno dei tanti piccoli segni che il cinema italiano sta finalmente cercando delle strade altre, delle strade diverse per raccontarsi. E qui secondo me c'è un ottimo inizio in Viaggio Sola, in cui si costruisce un personaggio femminile particolare sia per il cinema italiano sia per Margherita Bui, perché se ha quelle piccole tracce di nevrosi, di manie che si vede anche in altri personaggi, però è una donna molto più indipendente, molto più anche divertente nella sua goffaggine, nella sua incapacità di stare al mondo, nella società che vuole tutti accompagnati, vuole tutti felici. Lei è una donna sola, indipendente, a suo modo felice, anche se spesso imbronciata, e che è un modello femminile che non vediamo molto spesso. Il film, secondo me, a un certo punto, quando invece cerca di sposare quella società, magari non in scrittura, ma nel film, cerca di farla andare verso un mondo più normalizzato, perde la sua forza. E soprattutto la storia di questa donna che controlla gli standard degli hotel di lusso, che all'inizio può essere curiosa, può divertire, può avere una sua forza, è una trovata che forse non regge sul lungo termine. Non a caso Maria Sole Tognazzi molto intelligentemente fa durare il film 85 minuti, capendo che la trovata di sceneggiatura non era così potente, però forse era troppo debole. È un film che va insomma in una parabola discendente verso la fine, però mi piace l'idea del soggetto, la voglia di rischiare sia dell'attrice che della regista, quindi in questo caso forse invito ad andarlo a vedere nonostante alcuni difetti. Mi piace, allora, la voglia di rischiare. E allora chissà se poi appunto non aiuterà anche la voglia di vederla, di vedere questo film, l'intervista che il nostro Boris ha realizzato con Stefano Accorsi e Margherita Bui. L'ambiente in cui si trova è sufficientemente confortevole e accogliente? Il concierge ha parlato all'ospite guardandolo dritto negli occhi? L'albergo fa uso di un'essenza particolare e distintiva sia nella hall che nelle singole camere? Scusi, lei mi sta dicendo che ci vuole passare il punteggio per questo piccolo incidente? È un 5 stelle, è un hotel fuori dal comune, che deve offrire un'esperienza unica grazie a un servizio impeccabile. C'è giunta voce che in albergo c'è l'ispettore in incognito. Dietro di lei. Margherita, di solito i registi non sono gentilissimi nello scriverti personaggi, nel senso che sono sempre personaggi con storie un po' difficili. Questa volta nella sceneggiatura c'era scritto che tu saresti andato negli alberghi più lussuosi del mondo. È stata una bella soddisfazione, come hai reagito? Ho reagito bene, in realtà per me c'era un problema, diciamo, io non sono una grande viaggiatrice. Però mi ha fatto molto bene questo film, perché ho capito che adesso lo posso essere. È una donna particolare che appunto va contro gli stereotipi. È questo che ti ha affascinato? Questo ti ha affascinato del lavoro? Che... Il lavoro che ho fatto in questo film è bellissimo. È stata una sorpresa per me e sarà una sorpresa per chi lo vedrà il film. È divertente, è un po' un'investigatrice, insomma. Quindi io che ho sempre desiderato fare dei polizieschi non me l'hanno mai fatti fare, in fondo un po' indagavo. Mi piace poi il fatto che sia una donna solida, molto solida, che normalmente invece mi appioppano sempre questi personaggi che hanno sempre dei grandi struggimenti psicologici. E quindi no, invece mi fa piacere questa solidità e anche questa dolce rassegnazione, diciamo, a una vita che ormai è impostata in un certo modo e che non riesce più a cambiare, che però in fondo una riflessione che avviene durante il film è una vita che gli piace. Quanto si sta bene qui? Ma quasi quasi vengo a stare da te quando torno dai viaggi. Che scatola prende di solito? La Zolla formato famiglia o quella single? Si può fumare qui? Qui ci arrestano, possiamo andare in terrazzo? Sì. Che bello, hai ricominciato. Tu non avresti fatto un figlio con me? Se l'avessimo fatto avrebbe quasi 15 anni. Il cinema ci offre solo grandi patriarchi oppure padri alla Hugh Grant che scappano via. Il tuo personaggio è un po' diverso. Ma per fortuna, perché è un uomo che per quanto è accennato con qualche pennellata a questo rapporto, però si trova a passare una serata piacevole, si capisce, con una donna che non è il personaggio di Margherita. Noi siamo grandi amici. No, noi siamo amici nel film, ma io mi trovo ad uscire una sera ad invitare a cena una ragazza e la scena dopo mi si vede che vado da Margherita e le dico: sono angosciato perché lei è rimasta incinta e vuole tenere il bambino. Però nella scena successiva ancora mi si vede che dico: voglio cambiare appartamento perché voglio avere un appartamento con una stanza in più per quando nascerà il bambino. Quindi è un uomo che passa dall'angoscia di ritrovarsi padre di un essere senza averlo scelto al 100%, ha lo stato d'animo di un uomo che invece entra in questo rapporto misterioso con la paternità. Si pensa sempre che, appunto, come dicevi tu, patriarchi, quindi tutto il fatto del rapporto misterioso con la gravidanza sia di esclusiva femminile. Invece no, anche l'uomo ha un rapporto molto magico con questa cosa. L'ultima domanda è sul fatto che negli ultimi anni mi sembra sempre che le tue scelte si facciano sempre in qualche modo più raffinate, più ricercate. Anche qua, insomma, il tuo non è un protagonista assoluto, però è un personaggio che rimane impresso. Mi chiedo se il tuo modo di scegliere i film è cambiato negli ultimi anni. Guarda, ho imparato veramente abbastanza in fretta a togliermi il peso della responsabilità, dello sguardo degli altri, del giudizio degli altri sul mio lavoro. Responsabilità che a un certo punto ho sentito molto forte e che non ho mai voluto accettare, perché io penso che un attore si debba sentirsi completamente libero da questo tipo di responsabilità che ti possono venire sia da ambito produttivo che dal pubblico. Perché se tu cominci a scegliere pensando a quello che gli altri vogliono da te, sbaglierai comunque. In un modo che tra l'altro non ti appartiene neanche intimamente, quindi bisogna cercare di fare i propri errori con le proprie gambe, ecco. La Rosa Purpurea. Eccoci alla quarta parte della Rosa Purpurea. Andiamo a dare un'occhiata a quello che c'è da vedere in casa, ai film da recuperare, da rivedere, subito con gli amici della redazione di Film TV, dove ci aspetta Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Giulio, come sempre, un'occhiatina ai palinsesti in chiaro e gratuiti della prossima settimana per mettere via un paio di consigli, un paio di capolavori da rivedere. Cominciamo con Il Fiume Rosso, un film che non si vede mai abbastanza. Sì, lunedì su Rai Movie alle 21:10 Il Fiume Rosso, una delle pietre miliari del genere western, il primo girato da Ward Oates, è un dramma di caratteri epico e solenne concentrato sull'etica dell'uomo. Vale la pena ricordare un piccolo aneddoto: Oates invitò John Ford a un'anteprima privata del film e il regista di Sfida Infernale al termine della proiezione si voltò verso il collega indicando John Wayne, che qui sfodera una sofferenza quasi biblica da Mosè della Frontiera, e disse: non mi ero mai accorto che il Duca sapesse anche recitare. È un film da vedere assolutamente, perché è anche una pagina di storia americana. E allora guardatelo lunedì 29 aprile alle 21:10 in prima serata su Rai Movie, Il Fiume Rosso. E invece, come non consigliare di guardare anche un altro capolavoro come Occhi Ciorni? Sì, mercoledì Occiciorni su Rai Movie alle 15.55. È la rielaborazione di un racconto di Chekhov, la signora con il cagnolino, e di altre suggestioni tratte dall'autore russo. Il film di Nikita Mikhalkov racconta di un uomo che dopo aver mentito una volta non può più fermarsi. È una deliziosa commedia di amori, menzogne, malinconia e tenerezza, un film molto vivace, pieno di un sano piacere del racconto e dello spettacolo, con un'interpretazione strepitosa di Mastroianni che fu premiata a Cannes. Ed è questo l'ultimo film di Silvana Mangano. E allora, mercoledì 1 maggio alla notte 1.40 su Rai Movie Occiciorni. Grazie a Giulio San Giorgio e alla redazione di Film TV. Ciao Franco, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora, prima di passare all'on video, invece, terza traccia conclusiva del nostro game di oggi. Tu con le ruote della bicicletta dovevi costruire una sedia a rotelle per tuo padre paralitico dopo l'incidente. Ma mio padre sta bene. Male. Invece doveva essere investito da un camion mentre tornava a casa dalla fabbrica col lampadario sul manubrio della bicicletta. Beh, qui siamo sull'inconfondibile, la Rosa Purpurea @radio24.it. Di che film si tratta, col vostro indirizzo per provare a vincere una copia in DVD di questo film per la prima volta, pensate, per la prima volta in DVD, per il sabato, per la domenica. Settimana prossima vi daremo i nomi dei vincitori. I vincitori di 7 giorni fa invece li stiamo per annunciare, prima però sentiamo la clip. Non possiamo lasciarla sul letto abbandonata così, non si riconosce nemmeno più, non è più lei. Non possiamo fare niente per ora. È sotto terapia, le stanno dando delle medicine e non c'è altra possibilità per il momento. Che vuol dire che non c'è altra possibilità? Perché non la portiamo in ospedale? E si trattava di Amour, di Michel Haneke, il film che ha definitivamente consacrato il regista austriaco a uno dei più grandi nomi del cinema mondiale contemporaneo. E allora hanno indovinato per primi il sabato, anzi tutti e due la domenica, perché settimana scorsa non siamo andati in onda il sabato per via del presidente, insomma, colpa del presidente della Repubblica, vabbè, insomma, cioè, ci inchiniamo, però scherzi a parte. Due vincitori dalla domenica: Enrico Marinaro di Bolzano e Cristian Gambino di San Donà di Piave, provincia di Venezia. Riceveranno il DVD appunto di Amour. Invece noi ce ne facciamo raccontare i contenuti dal nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, da CG un video italiano, al momento solo DVD, dell'acclamata opera di Michael Haneke, di notevole qualità video, con doppia traccia italiana e francese Dolby Digital multicanale, molto interessante gli extra, di cui segnalo Making of, estratto di un film dedicato a Jean-Louis Trintignant, introduzione a cura di Philippe Royer, coautore di un libro dedicato al regista. E allora, questo per quel che concerne Amour. Invece andiamo a dare un'occhiata alle novità in videoteca, a partire da Killer Joe. Abbiamo un problema con i soldi da anticipare. Non ammetto eccezioni. Senta, mi faccia spiegare, uno dei motivi per cui vogliamo che il lavoro venga fatto è che mia madre ha una grossa, grossa assicurazione sulla vita. Ce l'hanno in molti. Noi pensavamo di garantire il pagamento appena l'assicurazione saldava il nostro. Senti, non sono disponibile a trattare. La conversazione è terminata. La prego, è importante. Oh, ma che pensavi che fosse, eh? Roba da stretta di mano. Protetto dal distintivo di poliziotto, Joe è un killer texano assoldato da padre e figlio in seri guai economici con la malavita per eliminare la madre, da tempo fuggita con un altro, e intascare così il denaro proveniente da un'assicurazione. Metà della ricompensa dovrebbe andare al killer sotto forma anticipata e la famiglia dovrà andare incontro ai suoi desideri a ogni costo. Dopo Opere minori, il maestro William Friedkin crea un'opera pulp nera e irriverente, presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Edizione di ACG Home Video, di cui consigliamo come sempre il Blu-ray per una qualità d'immagine superiore rispetto al DVD, doppia traccia audio DTS ad alta risoluzione italiano e inglese, sono entrambe eccellenti. Come extra segnalo l'intervista al cast e al regista. E parliamo invece di cinema italiano per concludere. Sergio Castellitto, protagonista di Venuto al mondo. Era una giornata di sole e suonarono le sirene. Sabina era scesa subito in cantina con gli altri. L'istinto, deve essere stato l'istinto. Per cercarsi si sono mosse tutte e due nello stesso momento. Mia madre aveva lasciato le lenzuola sul terrazzo ed era scesa per le scale proprio mentre Sabina era salita a cercarla. La granata le era giunta insieme quando si sono toccate. Ad anni di distanza dalla guerra, una madre porta con sé il giovane figlio Pietro a Sarajevo, invitata da un amico poeta per una mostra fotografica sulla guerra. Il viaggio è occasione per ricordare l'incontro fondamentale che la donna fece in Bosnia con Diego e il desiderio di un figlio impossibile da realizzare che la spinse a una scelta difficile. Dall'omonimo romanzo di Margaret Mazzantini, il complesso e asciutto film di Sergio Castellitto che senza retorica va in profondità su temi come la guerra, l'amore e il desiderio di maternità a qualsiasi costo. Da Warner Home Video, l'uscita solo DVD per un risultato comunque di qualità, audio Dolby Digital multicanale italiano e in lingua originale. Come extra segnalo un documentario di 22 minuti sulla lavorazione. E questo allora era Venuto al mondo, Sergio Castellitto, protagonista anche nel cast, ma insomma non protagonista principale, Penelope Cruz e Emil Hirsch sono i due attori protagonisti, regista comunque di questa operazione. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Un saluto, a presto. E allora siamo arrivati alla fine, alla conclusione del nostro programma. Mi resta il tempo per ricordarvi intanto la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpura Radio 24. Cliccate mi piace e unitevi alla nostra comunità per scaricare in podcast, per dire la vostra sui film che vedete, per avere le classifiche, insomma tutto quello che c'è da sapere giorno per giorno sul cinema. Poi per darvi appuntamento a Merano, dove fino al 1° maggio io e Boris Sollazzo, la strana coppia, siamo lì a presentare i film della settimana Cinema Resistente nell'ambito del Festival Resistenze di Bolzano, insomma tutto materiale che resiste, insomma comunque fino al 1° maggio tutte proiezioni gratuite con la presenza di registi, insomma venite a fare un giro da quelle parti che male non fa. Allora a questo punto io ringrazio Giorgio De Luca che ci ha assistito in redazione, Peter Bescapè che ha curato la regia, appuntamento alla prossima settimana.